490. Anguilla. L'anguilla vulgaris è un pesce dei più singolari, benché il valligiano di Comacchio pretenda di conoscere da certi caratteri esterni il maschio e la femmina, non si è riusciti ancora, per quanto lo si stia studiato, a distinguerne il sesso, forse perché la borsa spermatica del maschio è simile all'ovario della femmina. L'anguilla comune abita le acque dolci, ma per generare ha bisogno di scendere in mare. Questa discesa, che chiamasi la calata, ha luogo nelle notti oscure e principalmente nelle burrascose dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, e ne è allora più facile ed abbondante la pesca. Le anguille neonate lasciano il mare ed entrano nelle paludi o nei fiumi verso la fine di gennaio e in febbraio. E in questo ingresso, che dicesi la montata, vengono pescate alla foce dei fiumi in gran quantità col nome di cieche, e la piscicoltura se ne giova per ripopolare con esse gli stagni ed i laghi, nei quali, se manca la comunicazione con le acque salse del mare, non si possono riprodurre. Recenti studi nello stretto di Messina hanno rilevato che questo pesce e i murenoidi congeneri hanno bisogno di deporre le uova negli abissi del mare, a una profondità non minore di 500 metri, e che, a similitudine delle rane, subiscono una metamorfosi. Il Leptocephalus brevirostris, che ha l'aspetto di una foglia di oleandro, trasparente come il vetro, ritenuto finora una specie a sé, non è che il primo periodo di vita la larva di questo essere, che poi si trasforma in anguilla capillare, le cosiddette cieche, le quali, quando rimontano i fiumi in cerca delle acque dolci, non sono lunghe mai meno di 50 millimetri. Delle vecchie anguille, poi, che sono scese al mare, non si sa che ne avvenga. Forse, restando nella profonda oscurità degli abissi marini, muoiono sotto a quella enorme pressione o si modificano per adattarsi all'ambiente in cui si trovano. Un'altra singolarità dei murenoidi, in genere, è quella del loro sangue, che, iniettato nel torrente della circolazione dell'uomo, è velenoso e mortale, mentre cotto e mangiato è innocuo. L'anguilla, per la conformazione speciale delle sue branchie, a semplice fessura, per la sua forma cilindrica e per le squame assai minute e delicate, può vivere molto tempo fuori dell'acqua, ma ogni qualvolta si sono incontrate a strisciar sulla terra, il che avviene specialmente di notte, si sono viste proceder sempre nella direzione di un corso d'acqua, per tramutarsi forse da un luogo ad un altro o per cercare nei prati circostanti alla loro dimora il cibo che consta di piccoli animali. Sono celebri le anguille delle valli di Comacchio, paese della bassa Romagna, il quale si può dire viva della pesca di questo pesce, che, fresco o marinato, si spaccia non solo in Italia, ma si spedisce anche fuori. È così produttivo quel luogo che in una sola notte buia e burrascosa dell'ottobre 1905 furono pescati chilogrammi 150.000 di anguille. E più meraviglioso ancora è il risultato finale della pesca di quell'annata, che troverete descritto alla ricetta numero 688. In alcuni luoghi d'Italia chiamansi capitoni quando son grosse e bisatti quando son piccole, ed abitano tutti i fiumi d'Europa meno quelli che si versano nel Mar Nero, non eccettuato il Danubio e i suoi affluenti. La sola differenza di forma tra l'anguilla d'acqua dolce e quella di mare, conosciuta col nome di conger o congro, è che la prima ha la mascella superiore più breve dell'inferiore, e l'individuo prende meno sviluppo, in perocché trovansi dei conger fin di 3 metri di lunghezza, Forse da questo grosso pesce serpentiforme è derivata la favola del serpente di mare, sostenuta un tempo anche da persone degne di fede che ne esageravano la grandezza, probabilmente per effetto di allucinazione.